Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Le aziende che scelgono di assumere al sud hanno la decontribuzione totale come il primo anno del Jobs Act. Ed è una importantissima scelta che abbiamo fatto per il 2017. Questo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, è stato l'annuncio del Presidente del Consiglio Renzi a proposito di un possibile rilancio di misure per il rilancio dell'occupazione al sud. Ne parleremo nel corso di Effetto Notte con la mia imperturbabile bronchite, naturalmente, e poi ci occuperemo di molte altre cose, perché c'è stato un altro gesto a sorpresa di Bob Dylan, vogliamo chiamare un gesto fuori dalle righe o privo di cortesia, non lo so, ma poi ce ne occuperemo naturalmente tra poco. E poi ci ricollegheremo ancora con gli Stati Uniti per capire come procede la fase di transizione tra il presidente uscente Obama e il presidente entrante neoeletto Trump. E poi c'è questa vicenda anche di denunce per quanto riguarda le zone terremotate di furbetti degli affitti. Ci sarebbe qualcuno che approfitta del bisogno di molte persone di trovare un nuovo alloggio per aumentare gli affitti. Sarà effettivamente così? Cercheremo di verificarlo. Intanto, mentre vi ricordo che per le vostre interazione qui a Effetto Notte c'è la pagina Facebook del programma, che è sempre lì per voi giorno e notte, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Lo ripeto, 349-238-6666. Ma prima sentiamo che giornata è stata. Disoccupazione, l'annuncio di Renzi nel 2017, decontribuzione totale per chi assume al sud, varrà per i giovani e per chi è senza lavoro da almeno 6 mesi. La manovra economica, richiamo di Bruxelles sulla legge di bilancio, rischia di non rispettare i requisiti del patto europeo, ma Moscovici assicura si terrà conto delle spese sostenute per sisma e emergenza migranti. Stati Uniti, l'era Trump inizia con veti e veleni e intanto Obama e Merkel firmano un testo in cui, con un messaggio indiretto a Trump, perorano accordi sul commercio transatlantico, il TTIP, e a tutela del clima. Immigrazione, sono circa 580 i migranti salvati dalle navi italiane oggi in mare nel canale di Sicilia, ma in un anno sono quasi 5.000 le persone morte. Minori e crisi economica, Save the Children denuncia che quasi un minore su tre in Italia è a rischio povertà. Divorzi, sia ricorso di Berlusconi contro il maxi assegno all'ex moglie Veronica Lario per il PG della Cassazione, è eccessiva la cifra per il mantenimento. Nobel, Bob Dylan si dice molto onorato del premio, ma non andrà alla cerimonia del 10 dicembre per altri impegni. Partiamo quindi dal tema del lavoro e dall'annuncio di Renzi per rilanciare l'occupazione, in particolare a sud, un provvedimento che vale 730 milioni di euro e su cui torneremo a parlare tra poco. Questo avviene nel giorno in cui l'INPS descrive un mercato del lavoro con un numero di nuovi assunti in rallentamento. Da gennaio a settembre di quest'anno le assunzioni stabili sono scese di oltre il 32%. Il saldo, assunti meno licenziati, resta positivo, ma in calo del 90% rispetto allo stesso periodo del 2015, anno in cui i datori di lavoro avevano beneficiato dell'abbattimento integrale dei contributi previdenziali. Nel complesso, secondo lo studio INPS, le cessazioni sono diminuite, ma i licenziamenti per i contratti a tempo indeterminato, pari a oltre 448 sono cresciuti del 4% contro il meno 5 del 2015, balzo del 28% di quelli disciplinari. Considerando il periodo 2007-2014, emerge che il tasso di licenziamento è passato dal 5% pre-crisi al 7%, ma a fine 2016 dovrebbe assestarsi intorno al 6%. Dopo aver perso il lavoro, quasi il 70% dei lavoratori ricorre agli ammortizzatori sociali, il 20% riesce a ricollocarsi. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nel frattempo rimangono i divari fra Roma e Bruxelles. Giudizio rinviato della Commissione europea sulla manovra economica. La legge di bilancio rischia di non rispettare il patto di stabilità e crescita, spiegano da Bruxelles, una situazione questa che accomuna Italia, Belgio, Cipro, Lituania, Slovenia e Finlandia. Per l'Italia il divario tra impegni ed obiettivi è più ampio, ma, riconosce tuttavia il commissario europeo agli affari economici Moscovici, una parte significativa della deviazione di bilancio è associata ai costi del sisma e alla gestione dei flussi migratori. Su questi due aspetti siamo pronti fronte ad un ampio approccio, dice Moscovici. Il dialogo con Roma prosegue. Nello specifico dei costi del sisma, la stima segnalata da Roma alla Commissione è di 7 miliardi. Altro capitolo, quello del debito. Le politiche espansive frenano in Italia la sua riduzione. Vi sarà allora a breve, e questo coinvolgerà anche il Belgio, un rapporto specifico, dice il vicepresidente della Commissione, Dombrovskis. Ad essere monitorati dalla Commissione saranno in totale 11 paesi, tra questi rientra anche la Germania per crescente surplus e dipendenza dalla domanda estera. Le conclusioni di Bruxelles arriveranno ad inizio 2017. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Stati Uniti, adesso l'era Trump inizia con veti e veleni nel lavoro frenetico per formare la squadra del neoeletto presidente. C'è contrasto infatti fra le diverse anime politiche che lo hanno portato al successo. Il fronte è spaccato a partire dalla nomina di Rudy Giuliani a segretario di Stato, cioè ministro degli esteri. Intanto Barack Obama e la cancelliera Merkel firmano un testo in cui, con un messaggio indiretto a Trump, perorano accordi sul commercio transatlantico, il famoso accordo TTIP, e a tutela del clima. Da Atene poi Obama assicura che l'impegno americano nella NATO continuerà e ribadisce che la democrazia è più forte di una sola persona. Poi ci collegheremo, come dicevo, con gli Stati Uniti. Ma passiamo al tema dell'immigrazione. Sono circa 580 i migranti recuperati in mare al largo della Libia nelle 5 operazioni di soccorso coordinate dalla Guardia Costiera. Oggi i soccorritori hanno recuperato anche un cadavere e quest'anno sarebbero quasi 5.000 i migranti morti per raggiungere l'Europa, dati del terzo rapporto sulla protezione internazionale. Sono impressionanti i dati raccolti dal network composto da ANCI, Caritas Italiana, Citalia, Fondazione Migrantes e Servizio Centrale dello SPRAR, che si occupa dell'accoglienza diffusa. 4.899 persone hanno perso la vita per raggiungere l'Europa, di queste 3.654 nel Mediterraneo. Del resto nel mondo sono 65 milioni i migranti forzati in fuga dalle aree di crisi, il 51% dei quali minori, spesso non accompagnati. Il 98% proviene da Siria, Afghanistan, Somalia, Sudan e Sud Sudan. A cercare la strada dell'Europa illegalmente sono state oltre 1.800.000 persone. In Italia via mare ne sono arrivate quest'anno, fino a ottobre, 160.000. Supereremo quindi di gran lunga i 154.000 dello scorso anno. In tutto il territorio italiano risultano ad oggi 170.000 persone, accolte per lo più in strutture precarie e straordinarie, mentre è aumentato del solo 20% il numero delle persone negli SPRAR, il sistema di accoglienza più adeguato all'integrazione. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla politica italiana con naturalmente il dibattito sul referendum del 4 dicembre. Non ci sono alibi, se voti no difendi la casta. Matteo Renzi continua la campagna referendaria, la riforma semplifica il sistema politico, riduce il numero dei parlamentari e i costi, se voti no poi non venitemi a cercare. E Renzi ottiene anche il sostegno di uno dei padri fondatori del PD, Walter Veltroni, ma il voto si intreccia con le preoccupazioni economiche, così Emanuele Fiano. Con le riforme, come si vede anche in queste ore, sale di nuovo il PIL, addirittura più dei nostri partner europei. Senza le riforme risale di nuovo lo spread. Scontro poi con i 5 Stelle per l'account Twitter di Beatrice Di Maio, star social del movimento, colpevole di gettare cyberfango sul PD e sul Quirinale. Secca la replica 5 Stelle, il PD fa cyber onanismo. Altra questione invece è l'assetto del centrodestra. Silvio Berlusconi scarica Stefano Parisi perché non unisce Lega e Forza Italia e indica in Matteo Renzi l'unico leader. Così Maurizio Gasparri. Renzi è un leader politico, poi Berlusconi completa che l'altro leader politico è un signore che è stato ingiustamente estromesso dal Parlamento. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E c'è stata da parte della Camera oggi l'approvazione del decreto fiscale, con ogni probabilità la prossima settimana avrà anche il via libera del Senato. Fra i vari punti, rottamazione delle cartelle con l'addio a Equitalia, riapertura della nuova voluntary disclosure per chi ha aderito alla prima ma non aveva denunciato il nero in Italia, e poi cambio del calendario delle scadenze fiscali. Dopo ci soffermeremo un po' anche su questo argomento. Per quanto riguarda il femminicidio, la Commissione Affari Costituzionali del Senato approva l'istituzione di una commissione monocamerale d'inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere. La parola ora passa all'Aula del Senato. Minori e povertà, c'è l'allarme di Save the Children, sempre più precaria la condizione dei minori in Italia, quasi uno su tre è a rischio povertà ed esclusione sociale. I bambini di 4 famiglie povere su 10 soffrono il freddo d'inverno per mancanza di riscaldamento. E parliamo anche della nuova sentenza sulla separazione Berlusconi-Lario. Secondo il procuratore generale della Cassazione, l'assegno è troppo alto e va tagliato. Abnormi. Così Silvio Berlusconi ha sempre definito le cifre percepite dalla sua ex moglie Veronica Lario sia nel periodo della separazione sia dopo il divorzio. E ora il sostituto procuratore Francesca Cerioni gli va incontro, valutando accoglibile il ricorso dei legali dell'ex premier, quindi richiedendo ai giudici della Cassazione il rinvio del fascicolo alla Corte d'Appello per una nuova rideterminazione dell'importo mensile. Un assegno, quello alla Lario, che inizialmente nel 2013 il Tribunale di Monza fissò in 3 milioni di euro al mese, ridotto poi nel 2014 a 2 milioni dalla sezione famiglie della Corte d'Appello. Se l'importo mensile verrà ora ulteriormente ridotto, lo si saprà tra circa un mese, ma secondo quanto si è appreso, il procuratore ha condiviso la tesi sulla necessità di porre una soglia massima agli assegni di mantenimento, non solo a quelli dei paperoni, ma anche in tutti i casi in cui la rendita finisce per produrre ricchezza o consentire grandi investimenti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora una notizia molto particolare che riguarda medicina e scienza. In Cina, un primo intervento su un essere umano con la tecnica CRISP per curare un tumore, una sorta di taglia incolla del DNA. In sostanza, le cellule immunitarie modificate sono state trasferite nelle cellule del tumore, diventando dei killer mirati. Enza Loddo ha intervistato Gioacchino Iannolo, biologo cellulare presso l'ISMET di Palermo. Fondamentalmente sono delle cellule T ingegnerizzate mediante la tecnologia CRISPR che permette di eliminare specificamente un gene. Nello specifico, in questo tipo di cellule è stato eliminato il gene che presiede alla morte cellulare programmata, PD1. In tal modo le cellule possono attaccare maggiormente il tumore. Stanno studiando gli effetti collaterali? Questo tipo di clinical trial è stato portato avanti per evidenziare gli effetti collaterali di dosaggi crescenti in 3 diversi tipi di pazienti, tutti quanti con un tumore al polmone, non a piccole cellule. Quali sono le possibilità di questa tecnologia? Fondamentalmente che permette di eliminare uno specifico gene senza andarne a distruggere altri. Boss ain't here, he gone north for a while. Say that vanity got the best of him, but he sure left here in style. E quindi dicevamo all'inizio, Bob Dylan, l'Accademia svedese delle scienze ha annunciato che il cantautore non parteciperà alla cerimonia di consegna del premio Nobel per la letteratura il prossimo 10 dicembre, essendo occupato per altri impegni, anche se molto onorato per il riconoscimento. E quindi si chiude per il momento così questa faccenda controversa di Bob Dylan e del premio Nobel per la letteratura che gli è stato assegnato. Torneremo a parlarne poi dopo. Intanto vedo già i vostri messaggi su questo tema. Per esempio dice Valerio da Roma: Bob Dylan, mi si nota di più se vado o se non vado, parafrasa Moretti, il regista Moretti. Dice: lo snob snobba il Nobel. Effettivamente, insomma, un atteggiamento un po' particolare. Poi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte Francesco dice: Dylan, mi aspettavo una trovata del genere, poiché quando si vuole essere sempre controcorrente si finisce col diventare banali e prevedibili. E poi a proposito di Berlusconi, che oggi ha detto che nella politica italiana l'unico leader al momento è Renzi, dice: nel contesto italiano attuale ha purtroppo ragione. Mentre qualcun altro lo critica, Renzi sul Meridione, Meridione 1, Meridione 2, Meridione 3, Renzi Nox ne ha creata un'altra, scrive un ascoltatore. Continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al numero 349-238-6666. Ci sentiamo dopo la viabilità. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sono sempre con voi Roberta Giordano e con i vostri anche interventi qui attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666, sms e whatsapp. Allora, avete sentito il riassunto della giornata, che ascoltano anche dall'Australia, dal Ghana, scrivono continuamente ascoltatrici e ascoltatori che hanno un quadro così aggiornato delle notizie più importanti della giornata, a fine giornata per l'appunto. E per i vostri messaggi, intanto stavo guardando anche questi relativi a Bob Dylan, anche di diciamo posizioni diverse. Per esempio esempio. Elena dice: Bob Dylan, sto rispondendo a un'amica di Facebook che sostiene la complessità della risposta di Dylan a Nobel. Le sto dicendo che di solito comprendo la complessità, qui mi pare che si potessero fare due scelte, o rifiutare il Nobel o accettarlo e andare a ritirarlo, dice. Mentre Alessandro scrive: ma chi credono di essere gli svedesi che appena chiamano come un cagnolino bisogna rispondere? Si devono ancora riprendere dalla figura di M del Nobel della pace a Obama, quello della letteratura Dario Fo, ormai hanno un prestigio pari a zero, grande Dylan, scrive Alessandro. Continuate con le vostre differenti posizioni sui vari argomenti. Intanto vi ricordo quali sono le notizie più importanti se non avete acceso puntualmente alle 21. Richiamo di Bruxelles, l'Italia sulla manovra, rischia di non rispettare il patto europeo. Intanto però il commissario Moscovici rassicura dicendo si terrà conto delle spese sostenute per il sisma e per l'emergenza migranti. Renzi annuncia uno sgravio totale per le aziende che assumono al sud per il 2017. Questo intanto l'Inps registra una frenata dei contratti stabili, in 9 mesi solo più 47.455. E poi l'era Trump che inizia con veti e veleni nella transizione. Intanto Obama ad Atene dice: la democrazia è più forte di una sola persona. Per quanto riguarda il terremoto, 7 miliardi di danni sono stimati per il terremoto, quello di agosto. Intanto c'è stata oggi alle 12.50 una nuova scossa di magnitudo 3,9, stata registrata nella zona tra l'Umbria e le Marche. Poi la denuncia di 6 children, quasi un minore su 3 a rischio povertà. E per quanto riguarda i migranti, in 10 mesi morti 5.000, nel solo Mediterraneo 3.650. Berlusconi dice: non vedo i miei successori, ora Renzi è l'unico leader politico. E poi c'è stato il sì al ricorso del Cavaliere contro il maxi assegno all'ex moglie Veronica Lario. E per chiudere, Bob Dylan non ritirerà il Nobel per la letteratura a Stoccolma perché dice: ho preso impegni precedenti. Spero non abbia preso altri impegni precedenti. Alberto Rioli, vice editore del Sole 24 Ore, ci sei Alberto? Sì, ci sono, infatti il Nobel lo andrò a ritirare. Sì. Molto bene, è diciamo un minimo gesto così di, esatto, anche di educazione se si vuole. Certo. Ma noi ci occuperemo prima però del Mezzogiorno d'Italia, perché Renzi, l'avete sentito, oggi ha annunciato delle misure per il rilancio dell'occupazione al sud. Le aziende che assumono al sud giovani disoccupati avranno nel 2017 la decontribuzione totale. Lo vogliamo sentire Renzi che dice proprio queste cose? Su tutto il 2017 chi creerà posti di lavoro al sud, solo al sud vale questa, avrà la decontribuzione totale come il Jobs Act all'inizio. Questa è una notizia che credo sia importante per voi, lo dico ai lavoratori, perché quando con i posti di lavoro hai recuperato la situazione al nord, ma hai un sud che soffre, abbiamo messo 730 milioni di euro, il direttore dell'ANPAL, il professor Dal Conte, sta firmando adesso, ci siamo organizzati perché io lo potessi dire il giorno in cui firmava questo provvedimento. Alberto, poi ci sono ascoltatori che dicono: ecco, ricomincia la propaganda pro Renzi. In realtà parla il Presidente del Consiglio, una cosa che sembra importante, al di là che poi verrà attuata o no, e quindi va detto. E poi anche Andrea dice: Renzi promette certe cose in una città come Caltanissetta, stremata da uno dei redditi pro capite più bassi del paese, invasa dai migranti e dagli sciacalli. No, quindi, per carità, però la cosa esiste, obiettivamente, questo è un fatto. Si tratta di due fondi distinti. 200 milioni sono già nella legge di bilancio e valgono per coprire i costi della decontribuzione per i giovani che usano l'alternanza scuola-lavoro, quella legata ai contratti di apprendistato, che per la verità non hanno mai avuto un grandissimo successo presso le regioni perché avevano avuto una legislazione applicativa un po' complicata. Invece la novità è che ci sono questi 530 milioni che varranno per il sud, che sono stati sbloccati oggi e fanno parte di un pacchetto di fondi europei che sono legati ai programmi per le politiche attive, e appunto vengono mobilitati da questa nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive, che appunto è presieduta dal professor Del Conte. Questa cosa servirà a garantire a chi assume i giovani dai 15 ai 24 anni la possibilità di non pagare appunto fisco e contribuzione fino a 8.060 euro all'anno per tutto il 2017 nelle regioni del sud sostanzialmente. Saranno interessati i ragazzi tra i 15 e i 24 anni, ma anche persone che siano anche più grandi, dai 24 ai 29, se sono disoccupati, hanno perso il lavoro da almeno 6 mesi, ecco, questa è la platea di riferimento. È chiaro che c'è un requisito di fondo fondamentale, che al sud ci devono andare le imprese, perché senza le imprese non fai l'assunzione, e questo purtroppo attiene a tutta un'altra serie di provvedimenti di politica economica che un po' ci sono e un po' ci dovranno essere, perché quello è il grande tema. Alberto, per chiudere, oggi è stato c'è stato il primo via libera della Camera al decreto fiscale, no? Poi ci sarà quello del Senato. Ci vuoi ricordare proprio i tre quattro punti principali? Ma guarda, la cosa principale è la famosa rottamazione delle cartelle, che è stata estesa fino a tutto il 2016 e interessa un sacco di gente. All'interno di questa poi c'è la cosa molto popolare della rottamazione eventuale delle multe per i 4.500 comuni che non siano oggi amministrati da Equitalia, che però dovranno deliberare poi ciascuno a suo modo, diciamo così, come e quando consentire questa rottamazione. E poi c'è un'estensione della voluntary disclosure, che è un brutto termine inglese che serve però a spiegare questa sorta di sanatoria per il contante detenuto in Italia, e che anche in Italia, diciamo, oltre al contante ai beni detenuti all'estero. Grazie Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, ti aspettano a Stoccolma allora, sì, mi raccomando. Cercherò di non fare tardi. E non prendere impegno. Ciao. Grazie. Insomma, Bob Dylan, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, non si smentisce mai. Vi ricordate che era stato assegnato qualche tempo fa il premio Nobel 2016 per la letteratura? Gli era stato assegnato con generale sorpresa, con entusiasmo da parte di molti e con un certo sconcerto da parte di altri, perché ritenevano che non si può assegnare un premio della letteratura a un cantautore. Comunque, la ragione per cui, le motivazioni per cui l'Accademia di Svezia aveva assegnato questo premio erano queste: aver creato una nuova poetica espressiva all'interno della grande tradizione canora americana. In ogni caso, al di là dell'entusiasmo o dell'indignazione eccetera, lui che cosa aveva fatto? Si era reso irreperibile, nel senso che l'Accademia di Svezia l'aveva cercato per un po' per poter comunicare giustamente con lui, però lui non si è fatto trovare. In un concerto che aveva fatto la sera stessa neanche aveva fatto menzione del premio Nobel, e poi una quindicina di giorni dopo, in un'intervista esclusiva al Daily Telegraph, aveva definito la notizia, con certa, diciamo, morigeratezza, difficile da credere, emozionante e incredibile. E ora si apprende che Dylan non sarà a Stoccolma il prossimo 10 dicembre, che è il giorno in cui c'è la cerimonia di premiazione dei Nobel, no? Per ricevere dalle mani di Re Carlo Gustavo il premio. Ho altri impegni, questo è quello che ha scritto in una lettera, ho altri impegni, e per impegni presi precedentemente mi rendono impossibile il viaggio a Stoccolma a dicembre. Quindi subito nuovo scalpore, subito sorpresa per questo diniego di Bob Dylan. Poi un pochino dopo, in serata oggi, si è appreso che c'era una specificazione, diciamo, in questa lettera in cui lui diceva: sono molto onorato e comunque mi dispiace di non poter esserci di persona. Allora, con questo un po' la cosa ha preso, diciamo, degli aspetti più tenui. Però chiedo a Enzo Gentile, che saluto, critico musicale, autore di Time After Time, Dove, Quando e Perché nella storia del pop rock, pubblicato da Oepli. Ciao Enzo. Buonasera Enzo. Allora ti chiedo, è vero che questa cosa, il fatto che dice mi sento onorato però non posso esserci, ha un po' attenuato, no? Un'ulteriore sorpresa rispetto a questo suo atteggiamento, però è possibile che se la stia un po' tirando? Qualcuno l'ha paragonato a Sartre, il grande rifiuto di Jean-Paul Sartre, il filosofo, nel 1964, però lì era più per questioni ideologiche, anche perché lui rappresentava lo spirito ribelle, anticonformista di quegli anni del dopoguerra, no? Diciamo, comunque due personalità diverse. Perché fa così Bob Dylan, secondo te? Beh, Dylan è ritroso per definizione, anche se poi è sempre in giro tutto l'anno per una serie di concerti, il suo Never Ending Tour, che lo manifesta come persona invece molto sociale da questo punto di vista, perché sta sul palco gran parte della sua esistenza ormai da 50 e più anni. Dispiace a me personalmente non vedere una cerimonia in cui, come quella volta che andò dal Papa, si manifesta come un essere umano e non come l'artista inarrivabile e sommo che tutti conosciamo. Quando andò in presenza e cantò in presenza di Karol Wojtyla, insomma, fu senz'altro un passo importante per la musica, per il costume, per la convivenza civile, e questo sarebbe stato un altro passaggio significativo. Naturalmente il fatto di aver vinto il premio Nobel è un riconoscimento che non gli toglie nessuno, però ancora di più in questa circostanza io penso a quello che venne fuori anche nei giorni di questa nomination, cioè che forse, se lo merita, c'era un altro ritardo, un altro merito maggiore, che era quello che poteva andare a Leonard Cohen, ecco, un altro artista altissimo che aveva non solamente fatto grandi canzoni, ma scritto poesie, libri, disegnato e dipinto in termini molto molto importanti, e sono sicuro che Leonard Cohen sarebbe andato in Svezia e avrebbe sicuramente gioito di questo riconoscimento in maniera magari sommessa, ma assolutamente sincera, piena. Dice che certo è scomparso in questi giorni, non ha certo. Non gli è stato assegnato il Nobel, quindi tu stai dicendo però, Enzo, che un pochino questo atteggiamento di Bob Dylan, è vero che è sommo poeta, sommo cantautore, però forse a volte diciamo una certa modestia, una certa affabilità è più dei grandi, no? No. Sì, poteva con un gesto molto semplice, peraltro che sarebbe tornato a suo merito, diventare ancora più grande, senza cedere minimamente a questo suo riservo. Io lo seguo sempre in concerto, l'ho visto in ogni dimensione, fare dei grandi concerti, fare dei brutti concerti, concedersi più o meno, qualche volta addirittura bofonchiare qualche parola fuori dalle canzoni, e l'ho sempre amato. Però in questa condizione forse sarebbe piaciuto un gesto che penso fosse anche dovuto per una questione di cortesia e di rispetto internazionale. Tutto sommato i fan lo avrebbero apprezzato, e coloro che già non lo amano avrebbero forse riconosciuto un'umanità che anche i grandi artisti possono manifestare. Dopodiché in questi giorni sta uscendo un cofanetto con 36 CD dove viene riprodotta tutta la tournée inglese a metà anni 60, quando ci fu il famoso passaggio all'elettricità, e quindi il menestrello imbracciò la chitarra e fece della musica che poi avrebbe sicuramente istruito generazioni intere. Sono passati 50 anni e si ricorda ancora quel momento come un anello di congiunzione tra artisti, tra generazioni e tra segni, proprio anche semanticamente parlando. Quindi la sua grandezza in questo disco, in questo cofanetto, ci sarà tutta, ma poteva esserci un cenno anche minimalista, come quello di presentarsi e ricevere un'onorificenza che tutti plaudiamo comunque. E il tuo ragionamento mi sembra, devo dire, molto condivisibile. Grazie, Enzo Gentile. Grazie. Buona serata a te. Vedo che anche un ascoltatore dice, a parte il fatto che lo avrei dato a Leonard Cohen, che è morto la settimana scorsa, scommettiamo che trova il tempo di controllare il bonifico da 900.000 euro, mentre un altro ascoltatore, Tony da Milano, Dylan, anziché montagne di soldi, meriterebbe un po' di tempo, per un po' di tempo razioni di pane e acqua, così vediamo se la smette di fare lo sbruffone. E vabbè, poi invece un altro ascoltatore dice, vediamo se lo ritrovo il messaggio, Miki, Renzi ha sbagliato una volta con la decontribuzione e continua a farlo, dice, penso lo è o lo fa, eccetera eccetera. 349-238-6666 oppure pagina Facebook di Effetto Notte per interagire qui. Effetto Notte, naturalmente, a tra poco. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Tra poco vi ricordo velocemente le notizie più importanti. Non tutti accendono allo stesso momento naturalmente la radio, ma ricordatevi di accendere su Effetto Notte puntualmente alle 21. Intanto continuano i vostri messaggi tra un approfondimento e l'altro sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666. Per esempio scrive questo ascoltatore: a me il gesto di Bob Dylan sembra una bambinata, 80 anni fa ancora il ribelle 68. Poi un altro ascoltatore dice: sono serio, vista la statura di Bob Dylan, credo che per rispetto usi la diplomazia, ma del Nobel a lui non frega proprio, non frega niente, se no non sarebbe lui. Ma un altro invece messaggio scrive: ma i soldi Dylan che ne ha fatto, rinunciato come la cerimonia? Sapete che c'è un bel assegno comunque per il premio Nobel. Ma adesso vi ricordo anche le altre notizie. Disoccupazione, l'annuncio di Renzi nel 2017, decontribuzione totale per chi assume al sud, varrà per i giovani e per chi è senza lavoro da almeno 6 mesi. La manovra economica, richiamo di Bruxelles sulla legge di bilancio, rischia di non rispettare i requisiti del patto europeo, ma Moscovici assicura si terrà conto delle spese sostenute per il sisma e l'emergenza migranti. Stati Uniti, l'era Trump inizia con veti e veleni e intanto Obama e Merkel firmano un testo in cui, con un messaggio indiretto a Trump, perorano accordi sul commercio transatlantico e a tutela del clima. In migrazione, sono 580 i migranti salvati dalle navi italiane oggi nel canale di Sicilia, ma in un anno sono quasi 5.000 le persone morte. Minori e crisi economica, Save the Children denuncia che quasi un minore su tre in Italia è a rischio povertà. Divorzi, sia il ricorso di Berlusconi contro il maxi assegno all'ex moglie. E poi Nobel, Bob Dylan si dice molto onorato del premio, ma non andrà alla cerimonia del 10 dicembre per altri impegni. Ora parliamo del terremoto, è di 7 miliardi, c'è questa cifra, 7 miliardi la stima italiana dei danni per il terremoto, quello di agosto, del 24 agosto in centro Italia. Nella cifra sono compresi anche i costi per la prima parte della gestione dell'emergenza. Questa somma si dovrà però aggiungere la stima dei danni e i costi per la prima emergenza per il terremoto di ottobre, stima in via di definizione. Sono dati questi che si trovano nel documento presentato a Bruxelles per attivare appunto il Fondo Europeo di Solidarietà. Ma connesso con la tragedia del terremoto c'è un fenomeno particolare, odioso se confermato, che riguarda appunto le aree terremotate. Ci sarebbero, secondo alcune denunce, dei furbetti degli affitti. A denunciarlo con forza il presidente del Consiglio Comunale di Civitanova Marche, Daniele Maria Angelini, che parla di un fenomeno che alcuni terremotati hanno rivelato all'ufficio comunale che si sta occupando di sistemare sulla costa chi ha perso la casa e che lui stesso ha verificato. Dice: c'è sciacallaggio sui canoni delle case affittate agli sfollati, cioè c'è un aumento di prezzi. E a effetto giorno oggi c'era Massimo Di Mascio, agente immobiliare di Tolentino. Sentiamo cosa ha detto. Le persone vivono in camper, roulotte, in auto, in centri di accoglienza, con problematiche di ogni genere ovviamente. Le più fortunate, o meglio, le meno sfortunate, sono riuscite a trovare un alloggio in affitto, ma debbono imbattersi in canoni di locazione mai esistiti per una cittadina come Tolentino. Nel momento del bisogno e della disperazione, ovviamente gli avvoltoi sono sempre in agguato. Ci fa qualche esempio, per favore, Di Mascio, per darci un'idea? Sicuramente. Vengono persone, venivano, oramai gli affitti non sono più disponibili anche nel raggio di 40-50 chilometri da Tolentino. Vengono persone, venivano persone proprietarie a chiedere le valutazioni dei loro immobili da collocare in affitto. Ad esempio, in media un affitto di circa 400 euro mensile. Molte persone mi sentivo rispondere: perché 400 euro? Se andranno ad abitare tre persone, il contributo medio è di circa 200 euro a persone, 2, 4, 6, io chiedo 600. Ora ne vorrei parlare con Cristiana Cecchetti, che è assessora al patrimonio immobiliare del comune di Civitanova Marche, che è in provincia di Macerata, che segue appunto il servizio di collocazione per gli sfollati. Buonasera Cecchetti. Buonasera, ben trovati. Ben trovata a lei. E conferma questa situazione e quanto è diffusa, assessora Cecchetti? Allora, sicuramente posso dire che ci sono stati degli episodi poco etici, in quanto proprietari di seconde case in alcune circostanze hanno chiesto dei prezzi maggiorati. Questo è sicuramente un fenomeno che si è verificato in città, come in altri paesi, sia colpiti direttamente dal terremoto, sia dove arrivano i nostri amici colpiti da questa tragedia. A fronte di questo, comunque, che è sicuramente da stigmatizzare in modo negativo, e bene ha fatto a denunciare il nostro Presidente del Consiglio, io però debbo anche, per onestà intellettuale, dire che al servizio che abbiamo fin dal pomeriggio dopo il sisma di 6.5 attivato nel nostro comune, si sono presentati anche molti cittadini proprietari di seconde case che hanno dato gli alloggi a titolo gratuito, in alcuni casi chiedendo soltanto le utenze. In alcuni casi, anche se non tantissimi, addirittura nulla, nemmeno le utenze, e quindi posso dire che se è vero che alcuni si sono comportati male, altri si comportano con grande solidarietà. Quindi a fronte di vari furbetti, come si diceva, però sì, lei raccontava anche di grande generosità da parte di altri che addirittura hanno dato la casa così gratuitamente. Prego. Questo è sicuramente vero, e poi posso dire anche questo: il comune riceve solo una parte delle disponibilità della cittadinanza, nel senso che non tutti passano per l'amministrazione per offrire i loro alloggi, alcuni fanno anche delle trattative private eque, non trattative non etiche, insomma, trattative del tutto giuste, normali, con piccoli affitti. E quindi il numero degli alloggi dati in modo solidale non è molto piccolo, è un numero abbastanza significativo. Certo, se posso approfittare del vostro collegamento, io comunque ai miei concittadini, mi rivolgo ai proprietari di seconde case di Civitanova, comunque il mio è un appello forte perché diano ancora la disponibilità di alloggi. Ne abbiamo un bisogno grande, perché alcune famiglie non possono, proprio per loro problematiche, vivere dignitosamente bene in un albergo, perché ci sono, non so, disabili in famiglia, persone anziane che hanno dovuto recuperare dalle case di riposo dove stavano, perché le case di riposo sono lesionate, quindi una permanenza in albergo non è agevole. I bambini hanno bisogno di un ambiente normale dove ricostituire il tessuto degli affetti familiari, di stare sereni per superare il grandissimo shock, perché al di là del fatto che queste persone hanno salvato la vita, in alcuni casi è l'unica cosa che hanno salvato, non hanno più niente oltre alla propria vita, né attività né case, è veramente una grandissima tragedia. Quindi invito ancora i miei cittadini, che hanno già fatto molto, a essere ancora più presenti, ancora più vicini. Abbiamo bisogno soprattutto di alloggi a piano terra, perché le persone sono terrorizzate proprio, non è un immaginare. Modo di dire. No, si può immaginare, assessora Cecchetti, io la ringrazio, ha fatto bene a fare questo appello, c'è bisogno di solidarietà. Poi se uno non si sente di dare la casa gratuitamente, naturalmente, come diceva lei, con un affitto equo, legittimo, sembra anche giusto. Si può chiedere. Grazie assessora Cristiana Cecchetti, assessora, ricordo, al patrimonio immobiliare del Comune di Civitanova. Grazie, buon lavoro. Viabilità. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, le notizie in pochi secondi, ve le ricordo adesso, mentre poi c'è Rosario D'Amineo che scrive: gli artisti vanno lasciati liberi, non amano la celebrità, le gabbie, dice a proposito della scelta di Bob Dylan di non presentarsi a ritirare il premio Nobel il prossimo 10 dicembre. Intanto, per quanto riguarda le notizie più importanti, vi ricordo che c'è stato questo richiamo di Bruxelles sulla manovra economica italiana, che rischia di non rispettare, secondo Bruxelles, il patto europeo, però Moscovici, commissario europeo, assicura che si terranno conto le spese per migranti e per i terremotati. Poi Renzi che annuncia uno sgravio totale per le aziende che assumeranno al sud, con fondi per 730 milioni di euro nel 2017. E poi l'era Trump, che inizia con vari veti e, insomma, in modo fibrillante, ne parleremo poi tra poco in questa fase di transizione. 7 miliardi di danni stimati per il terremoto di agosto. Intanto c'è stata oggi una nuova scossa di magnitudo 3,9 tra Marche e Umbria, ne abbiamo appena parlato. Save the Children lancia l'allarme: quasi un minore su tre a rischio povertà in 10 mesi. Poi, per quanto riguarda invece l'emergenza migranti, sono morti in 5.000. Europa 24 notte. Si celebrano i 30 anni di internet ed è esploso nel frattempo il fenomeno dell'odio online, il cosiddetto hate speech, che è un progetto europeo esplorato dal punto di vista legale, giornalistico, psicologico, etico. Il progetto si chiama BRICS, è l'acronimo di Building Respect on the Internet e mira all'educazione di giovani e media. Finora è stato sperimentato in Italia, Germania, Repubblica Ceca e Belgio, ma si replicherà presto. Molti studi recenti, ma anche la cronaca, mostrano che sui siti, sui blog, sui social network si diffondono discorsi di istigazione all'odio nei confronti di una persona o di un gruppo di persone da parte di quelli che si chiamano haters, odiatori, quasi professionali, e i loro attacchi sono basati sull'origine nazionale o etnica, sul colore, la lingua, la religione, la disabilità, il sesso, il genere o altra caratteristica o status. Per combattere l'odio online si avvia la chiusura, la prima fase di un progetto europeo di educazione che ha formato giovani, ma anche i media, dal nome BRICS, che vuol dire mattoncini, ma è l'acronimo di Building Respect on the Internet by Combating Hate Speech. Il progetto, in 2 anni di vita, ha infatti promosso ricerche sul giornalismo, emigrazioni e percorsi di educazione nelle scuole e ai media, in Italia, Germania, Repubblica Ceca e Belgio. È un progetto europeo, il bilancio è positivo e quindi si replicherà. Lo annuncia la capofila delle ONLUS e associazioni coinvolte, che è italiana, il COSPE, e che il 9 ottobre a Pisa, durante l'Internet Festival, ha organizzato l'evento finale. L'incontro hashtag Silence Hate ha fatto il punto sul progetto, come spiega Alessia Giannoni di COSPE. Il progetto BRICS è un progetto europeo, è quasi alla fine, dopo 2 anni di attività che si è svolto in Italia, Repubblica Ceca, Germania e Belgio. L'idea di partenza appunto è stata quella di approfondire il fenomeno delle speech online e ci siamo mossi su un doppio di livello. Da una parte il livello a contatto con il mondo dei media, con i giornalisti, pensando appunto come fosse importante ragionare su come le speech, quindi l'odio, viene diffuso attraverso mezzi di informazione. C'è anche un decalogo per chi gestisce questi social media. Innanzitutto ci siamo concentrati su una questione principale, che è la policy. È importante che una redazione abbia una policy pubblica, delle regole di comportamento in base alle quali poi si sa come gestire il rapporto con i propri utenti in maniera obiettiva e in maniera trasparente. Il coinvolgimento e la valorizzazione della community, non avere paura di prendere delle decisioni anche arrivando a bannare gli utenti, nel senso che non tutto deve essere permesso. Questo progetto anche coinvolge moltissimo i giovani, perché sono quelli più toccati, diciamo, dai social media e dalla mala gestione. Noi abbiamo lavorato tantissimo nelle scuole, abbiamo realizzato oltre 200 ore di laboratori coinvolgendo 580 studenti della fascia della scuola secondaria di secondo grado, quindi le vecchie scuole superiori. Abbiamo lavorato molto con loro, c'è molto interesse per questo tema, perché molti ragazzi vivono questo tipo di esperienze e speech, cyberbullismo, ahimè, sono anche fenomeni che abbiamo visto nelle pagine di cronaca in questi ultimi giorni, perché spesso manca anche un'educazione. Il progetto quindi si rinnova per l'anno prossimo? Cambia, abbiamo un altro progetto di 2 anni che è concentrato più sul mondo del giornalismo in diversi paesi europei, anche in paesi diversi rispetto a quelli coinvolti finora. E invece per quanto riguarda le scuole stiamo continuando, devo dire abbiamo anche molta richiesta da parte di varie scuole per diffondere il modulo, e soprattutto molti insegnanti ci hanno chiesto appunto di avere loro una formazione per poter affrontare con i ragazzi e con le ragazze queste tematiche. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Licia, sempre a proposito di Bob Dylan, scrive: se andasse a ritirare il premio non sarebbe Dylan. Adesso invece noi ci colleghiamo con, appunto, dove Dylan abita, negli Stati Uniti, ma per parlare d'altro. Come procede la fase di transizione tra Barack Obama, che tra poco lascerà la presidenza americana, e il neoeletto presidente Trump, che dovrà insediarsi il 20 gennaio? Intanto proseguono da una settimana le proteste di piazza contro Donald Trump e si apprende che Hillary Clinton avrebbe avuto un milione di voti in più, il voto popolare, perché poi sapete che lì funziona poi il sistema dei grandi elettori, un divario questo di 1 milione con Trump, 1 milione in più, che potrebbe anche crescere nel conteggio che si sta facendo man mano. Ci colleghiamo con il nostro Marco Valsani, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Caro Marco. Buongiorno, buonasera, ciao. Da te buongiorno. L'era Trump quindi inizia con veti, veleni, perché ci sono queste fitte consultazioni per il presidente americano che affronta le nomine chiave, no, della sua amministrazione. Ci sono un po' diverse anime, così possiamo dire? Sì, possiamo sicuramente dire che la transizione è cominciata con qualche intoppo, nonostante i ripetuti tweet di Trump, che tra stanotte, ieri notte e oggi ha ripetutamente dichiarato che tutto procede per il meglio, che così il lavoro del team di transizione è del tutto armonioso, ecco, cioè in realtà dietro le quinte ci sono veti incrociati politici e personali che stanno complicando la scelta dei prossimi ministri. Dicevo politici e personali perché ci sono da una parte anime diverse, come ricordavi tu, più conservatrici e più moderate, che si stanno scontrando. Uno degli scontri è sulla nomina del segretario di Stato, che in pole position, ricordiamoci, è Rudolph Giuliani, ex sindaco di New York, Ma che da una fetta del Partito Repubblicano viene considerato troppo bellicoso, ecco, come l'ha definito il senatore Rand Paul. Dall'altra anche questioni più personali, per esempio si sa che il genero di Trump, Jared Kushner... Quindi il marito della figlia Ivanka, la sua figlia prediletta. Esatto, come si dice. Il marito della figlia Ivanka, che è un grande consigliere, così dietro le quinte di Trump, ha deciso, ha intenzione di ripulire la squadra di transizione da tutti quelli che sono vicini o erano in qualche modo in odore di vicinanza a Chris Christie, l'ex capo della squadra di transizione, che è stato così allontanato la settimana scorsa, silurato, diciamo. Ecco. Perché l'avrebbe fatto arrestare suo padre in passato, mi sembra, il padre esatto. In realtà lì, infatti, ci sono sia ragioni, diciamo così, politiche di opportunità, nel senso che Chris Christie è stato più che sfiorato, diciamo, da vari scandali di abuso di potere in New Jersey, dove è governatore, ma c'è anche una specie di vendetta anche personale, proprio perché Chris Christie, quando era procuratore federale di New Jersey, aveva fatto condannare il padre di Kushner, Charles Kushner, a un anno di carcere per evasione fiscale e irregolarità nei contributi elettorali. Quindi ecco, c'è sicuramente tutta una serie di tensioni interne che stanno appunto complicando il lavoro del team di transizione e stanno ritardando le nomine, che poi sono quelle fondamentali per poi arrivare all'inaugurazione. Ho letto anche che c'è una protesta dei corrispondenti della Casa Bianca, perché li sta praticamente diciamo un po' ignorando Trump. Loro dicono: noi dobbiamo sapere i suoi movimenti, cosa fa, perché poi dobbiamo comunicarlo. Ma caro Marco, mi sa che ci dobbiamo lasciare a questo punto. Ci aggiornerai naturalmente nei prossimi giorni, sempre dagli Stati Uniti. Grazie Marco Valsania. Certo. Ciao Marco. E ci riaggiorniamo brevemente alle 22 come sempre.